tempo che va, forse solo speranza, già morta chissà, e forse una cosa che mai si farà, e forse una volta un ricordo era già. Il profumo dell'incenso si riflette forte e denso sulla nebbia del cortile e si alza sulle rive. Gente in fila sale in barca, pendolari che ogni alba riperpetuano laghi o monti, uno spinge i loro giorni nel rumore del carretto steso sotto. Il gioco degli scacchi dell'avere per sé rompe i contatti di chi scaltro non è. La stanchezza dei rotti rompe i perché, ma la guerra fra i tutti la ordina un re. Vecchia manda l'acqua con rumore di risacca sulla ruota del mulino che ripete il suo destino. Tra le canne di un canale sordo, intanto trova un accordo, cerca una coerenza, la musa di ogni scienza che armonizza varie parti, poi procede senza sbalzi. Ma la nube sopra il lago resta il segno di un peccato, dal mistero sempre uguale che ci fa inchinare al male. Certo, viene voglia di dire ho già dato a chi inventa conferme o chi ti chiede un passato. E forse una cosa che mai si farà, e anche una volta un ricordo era già. E forse una cosa che mai si farà, e anche una volta un ricordo era già.